in primo piano. Le aperture oggi dei giornali il giovedì 2 dicembre sono diversificate. C'è chi, come il Sole 24 Ore, punta sulle borse. La BCE risolleva i mercati. Tremonti e Banca Italia, il nostro sistema finanziario è solido. C'è ancora Wikileaks, il dossier Berlusconi-Putin per Repubblica e anche il Corriere Italia-Russia, tutti i dossier americani. Mentre c'è chi sceglie la politica italiana, come La Stampa, troppi rischi, la Camera chiude. E così anche il giornale, Camera chiusa per guerra. Insomma, le scelte sono diverse. Il Messaggero, per esempio, apre invece, come abbiamo sentito, la sentenza d'appello nei confronti di Spacca Rotella, colui che ha ucciso il tifoso Gabriele Sandri. Sandri, omicidio volontario, 9 anni al poliziotto, questa è l'apertura del Messaggero. Vedremo qualche altra apertura più avanti. Io vorrei iniziare a parlare in questo inizio di rassegna stampa dalla cultura, perché ci sono vari spunti interessanti. È stata una giornata, per la verità, ancora negativa a Pompei, dove ci sono stati altri 2 crolli, ma magari lo vedremo più avanti. Io voglio partire da pagina 26 del Sole 24 Ore, dalle aziende 3 miliardi alla cultura. Ieri è stata presentata una ricerca, il valore della cultura, secondo la quale, scrive Marica Gervasi oggi sul Sole 24 Ore, pagina 26, circa il 48% delle imprese italiane, dunque una su due, ha investito in cultura per una cifra complessiva stimata tra i 2,5 e i 3 miliardi di euro l'anno. Le imprese con più addetti investono il 56% del totale, a fronte di un 44% di investimenti da parte delle imprese più piccole. Questo è un dato interessante, tra l'altro messo proprio sul Sole 24 Ore, a fianco in qualche modo alla Pompei senza tregua, come dire, no? Ieri ci sono stati altri 2 crolli, con domani ci saranno la visita degli inviati dell'UNESCO. E tra l'altro questa vicenda degli investimenti delle imprese in cultura fa un po' pari passo da quello che, con quello che troviamo in prima pagina di Repubblica, una storia invece un po' diversa, una storia in questo caso raccontata di un fallimento secondo Repubblica. In prima pagina il caso Colosseo, restauro flop, gli sponsor non ci sono. Sono Carlo Alberto Bucci e Dario Pappalardo che raccontano di questo tentativo, secondo Repubblica, andato a vuoto, di reperire appunto gli sponsor per restaurare il Colosseo. Il capofila è Diego Della Valle, che alla fine si è ritrovato però da solo, perché la cordata di imprenditori che lo dovevano seguire nell'impresa di salvare il Colosseo si è sciolta. È stato un flop la gara per la ricerca degli sponsor bandita il 4 agosto, che doveva raccogliere le proposte per il restauro del simbolo di Roma. Pochi candidati che si sono fatti sotto e sono risultati inadeguati al compito. La Repubblica cita anche la Will Beni Culturali, secondo la quale la commissione che doveva esaminare le domande del concorso internazionale composta da 5 persone non si è neanche mai riunita. Gli industriali sono molti quelli che hanno dato una sbirciata al testo della gara per Repubblica, ma poi alla fine è rimasto, come peraltro anticipava anche ieri il Sole 24 Ore, solamente Della Valle, che ora sarebbe addirittura disposto a fare tutto da solo, finanziare con 23 milioni il restauro del monumento visitato da 6 milioni di persone all'anno. Insomma, cultura e imprese, due o tre notizie che trovate oggi sui giornali, a mio modo di vedere interessanti per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano. E allora, che dire, ci fermiamo per pubblicità e meteo, poi partiamo da Wikileaks, da Julian Assange, l'uomo più ricercato al mondo dopo Bin Laden, ormai al pari di Bin Laden. Sulle prime pagine del giornale ancora trovate molto delle rivelazioni di Wikileaks. Così rispondo a chi mi scrive un messaggio dicendo: siamo dei disonesti, noi e la nostra radio, che facciamo schifo perché non diciamo che la Clinton ha detto che Berlusconi è il miglior amico americano. Censuriamo, va bene. Eccoci qua. E allora, Berlusconi ha incontrato Hillary Clinton, che ricuce e dice, secondo il Corriere della Sera, secondo la conferenza stampa che abbiamo visto, elogia il cavaliere, è il miglior amico degli Stati Uniti. Tra l'altro il Corriere ospita oggi un intervento dell'ambasciatore americano in Italia, David Thorne, che dice: la politica degli USA è pubblica, è trasparente, contano le dichiarazioni. È un intervento pubblicato a pagina 3 del Corriere della Sera. Ton dice: negli ultimi giorni abbiamo visto documenti che affermano di contenere rapporti dei nostri diplomatici in vari paesi del mondo, altri documenti su conversazioni private tra interlocutori interni e esterni ai governi. Alcuni di questi sarebbero presunti rapporti provenienti dall'ambasciata americana in Italia. La condanna è netta verso la diffusione illegale di informazioni classificate. WikiLeaks mette a repentaglio fondamentali relazioni tra i governi, la vita e il lavoro di molte persone. E poi però David Thorne dice: l'Italia e gli Stati Uniti hanno da sempre relazioni solide e apprezziamo profondamente il sostegno ricevuto dal Presidente del Consiglio Berlusconi e dal suo governo. Dunque, dal punto di vista ufficiale, anche Berlusconi e dal suo staff fanno sapere il caso è chiuso, appunto con questi elogi pubblici avuti dal segretario di Stato Hillary Clinton ieri in Kazakistan. Sta di fatto che però i giornali continuano a portare alla ribalta anche i nuovi documenti di WikiLeaks, soprattutto i rapporti tra Berlusconi e la Russia, che è uno degli elementi che, quando c'era l'ambasciatore Spogli, il predecessore dell'attuale Thorn, aveva preoccupava, almeno leggendo alcuni dei cablo che sono stati trasmessi dall'ambasciata di Roma a Washington. Per esempio, oggi li pubblicano tutti i giornali, uno è questo: i nostri contatti sia nell'opposizione sia nel PDL di Berlusconi hanno portato a conclusioni nefaste. Questo è un cablo dell'ambasciata americana di un paio di anni fa. Il governo della Georgia crede che Putin abbia promesso a Berlusconi una percentuale di profitti sui gasdotti costruiti da Gazprom insieme all'ENI. Quando solleviamo la questione della Russia con i nostri contatti nel PDL, ci fanno il nome di Valentino Valentini, membro del Parlamento, specie di figura ombra che lavora come uomo chiave di Berlusconi in Russia. Tutti i nostri interlocutori raccontano che Berlusconi decide la politica italiana sulla Russia da solo, senza cercare o accettare consigli. Anche il ministro degli esteri Frattini ammette di non esercitare alcuna influenza su Berlusconi, sulla Russia. Ecco, questi sono i rapporti che, secondo i giornali, oggi preoccupavano l'ambasciata americana, cioè rapporti molto personali e rapporti nei quali Berlusconi gestiva in prima persona, proprio con Putin, le relazioni con la Russia. Anche questo timore espresso dal governo della Georgia, per la verità, del fatto che Putin abbia promesso a Berlusconi una percentuale dei profitti sui gasdotti. Sta di fatto che questo Julian Assange, ma dove è finito? Oggi ancora è il tema di molti giornali. Il Sole 24 Ore caccia da Assange in 188 paesi, è ricercato per due inchieste di stupro in Svezia. Tra l'altro Repubblica fa sapere che la vicenda ha anche un po' del paradossale, oserei quasi dire del ridicolo, l'accusa di due donne in Svezia, sentite per cosa è accusato, è quello di non essersi fermato per due volte in un atto dapprima consensuale e poi diventato stupro di fronte agli inutili appelli quando i due preservativi si sarebbero rotti durante i rapporti sessuali. Quindi due atti sessuali con due donne diverse, entrambi consensuali, poi si è rotto il preservativo e alle donne che dicevano: scusi Assange, si può fermare? O scusi Julian, o scusa Julian, ti puoi fermare? Julian non si sarebbe fermato. Queste sono le due accuse di cui deve rispondere in Svezia, e però è ricercato in tutto il mondo, con anche Repubblica che fa una pagina, braccato inafferrabile, sulle tracce di Julian, a pagina 11, pare che si nasconda a Londra o in una casa privata a Londra, qualcuno lo dà a Cuba, qualcun altro lo dà a Mosca, qualcun altro l'ha dato in Ecuador perché l'Ecuador era pronto a ospitarlo ma poi il presidente ha negato, qualcun altro lo vorrebbe morto. Come per esempio Tom Flanagan, consigliere del premier del Canada Stephen Harper: credo che debba essere assassinato. Se qualcuno lo facesse fuori non mi dispiacerebbe per nulla. Ma anche Sarah Palin, l'ex candidata alla vicepresidenza americana, ha detto: tra lui e Al-Qaeda non c'è differenza. E questo è il tema del nostro sondaggio. Noi vi chiediamo: è un paladino della libertà? Il Time pare voglia nominarlo uomo dell'anno. Ogni anno la rivista Time mette l'uomo dell'anno a fine anno, dunque a dicembre. C'è invece chi lo vuole paragonare ad Al-Qaeda e dice è un criminale. Dunque, paladino della libertà o criminale? Questo vi chiediamo nel sondaggio, ne parleremo poi alle 8:30. Venendo alla politica italiana, il tema del giorno è quello della chiusura della Camera fino al 14, fino al D-Day, o meglio il 13. Montecitorio chiuso per guerra fredda, così dice il giornale. Perché è stato chiuso? Perché la maggioranza, a sua esplicita richiesta della maggioranza, dice per evitare voti cruciali, per evitare problematiche, per evitare di portare avanti dei provvedimenti che di fronte a un giorno così più importante diventano secondari, tanto vale chiudere la Camera. Tra l'altro Repubblica, le opposizioni ovviamente sono insorte, ma insomma, schermaglie politiche. Repubblica pagina 2 fa sapere che quest'anno i deputati si sono presentati solo 136 volte in aula. Certo, poi ci sono i voti nelle commissioni, però 136 giorni di votazioni su 300 e quasi 65 ormai. La politica su cosa si interroga? Ma intanto è tutto a questo punto un avvicinamento al cosiddetto D-Day. Vado avanti, no alle manovre di palazzo, questo per il Corriere della Sera avrebbe detto Berlusconi, la linea sarebbe quella di una fiducia ampia oppure si va a votare, ma oggi retroscena sono tantissimi. Per esempio La Stampa dice che in realtà le voci di una trattativa segreta ci sarebbero tra Berlusconi e i Finiani. Portate avanti da chi? Beh, da Gianni Letta. Ugo Magri, pagina 3 della Stampa, su che cosa si starebbe trattando? Sulla legge elettorale, che è quella che non va giù a Fini, non va giù a Casini, Fini e Casini che oggi con Rutelli dovrebbero vedersi per formalizzare l'atto di sfiducia. Però in realtà Ugo Magri fa sapere che sotto traccia quanto circola nel palazzo è quello di un tentativo di una riappacificazione, cioè Letta e anche Alfano sarebbero i mediatori e sarebbero incaricati di sondare il presidente della Camera su come mettere mano al porcellum, la legge elettorale, perché lì starebbe la chiave dell'enigma, la madre di tutte le questioni. Tanto Fini che Casini vogliono togliere il premio che garantisce una maggioranza dei deputati a chi prende anche solo, per dire, un 25% dei voti. Si potrebbe accettare la soglia dello sbarramento piazzato intorno al 45%, non il premio di maggioranza, ma il 40% fa scattare un premio di maggioranza del 45% a chi prende la maggioranza di voti. Anche il Sole 24 Ore fa sapere che su questo c'è un tentativo di trattativa. Celestina Dominelli, premio al 40%, ecco l'ultima mediazione, le colombe sono al lavoro. E tra l'altro qui c'è anche un'interpretazione di quello che io vi chiedevo ieri in rassegna stampa, quando vi ho fatto notare, ma com'è che Gianni Letta, uno sempre abituato a misurare le parole col bilancino, invece nell'ultimo mese per tre volte, ben tre volte, ha detto sono rappresentante del governo pro tempore e non lo so fino a quando rimango? Ecco che il Foglio ci fa infatti il commento di prima pagina. Gianni talks, cioè Gianni parla, ecco perché Letta abbandona la propria riservatezza e ora parla. Anche per il riservatissimo Gianni Letta, tre dichiarazioni in meno di un mese sono un evento. Effettivamente io non potevo non notarlo. Una notizia intorno alla quale da ieri ci si interroga nel palazzo. Perché parla Gianni Letta? L'interpretazione, secondo alcuni analisti della politica, come Cirino Pomicino, sentito dal Foglio, è: Letta parla perché Berlusconi è nel bunker e non ascolta. E Letta parla perché in realtà c'è un tentativo appunto di ricomporre, chissà se sottile o meno, un rapporto con Fini. Anche a retroscena di Repubblica è questo: il terzo polo tenta la spallata, se Silvio fa un passo indietro possibile un esecutivo Letta, mentre il Corriere si esercita su chi vota, chi non vota, il pallottoliere, no? Sfida chiave alla Camera tra incerti e battitori liberi, in gioco una decina di voti, a pagina 9 del Corriere della Sera. Insomma, ma da qui al 14 dicembre ogni giorno ci sarà qualcuno dei parlamentari decisivi che verrà dato per passato di qua o di là per votare. L'altro retroscena, che per la verità pare sia sul Messaggero sia sull'Unità, che non è insomma quindi da sottovalutare, è questo: la tentazione del Premier sarebbe prima incassare la fiducia al Senato e poi dimettersi un istante prima di essere bocciato alla Camera, cioè incasso la fiducia al Senato e non mi presento, vado al Quirinale e non mi presento al, non chiedo la fiducia alla Camera, vado prima al Quirinale. Questo perché? Per mantenere, comunque, non presentarsi con un atto di eventuale sfiducia, mantenere il pallino in mano. Sta di fatto che la politica si interroga dell'avvicinamento a questo 14 dicembre. La politica però ieri ha dato, a mio modo di vedere, uno spettacolo abbastanza indecente, parlando della vicenda del suicidio di Mario Monicelli. Da qui ripartiamo, visto che sui giornali non esiste giornale che non ospiti un commento anche autorevole su questa vicenda. Come detto, sulla vicenda del suicidio di Mario Monicelli ieri si è prodotto uno scontro feroce alla Camera tra chi, Rita Bernardini dei Radicali, ha detto: vedete, ha scelto il suicidio perché era una persona sola, abbandonata, e allora perché non bisognerebbe introdurre il discorso in questi casi della dolce morte, l'eutanasia, è insorta la Binetti, basta fare questo spaccato di pubblicità sempre all'eutanasia in tutte queste vicende. C'è anche il capo dello Stato che con la sua solita sobrietà, però questa volta ha detto qualcosa che ha fatto arrabbiare qualcuno, perché Napolitano ha detto una volontà estrema, quella di Monicelli, da rispettare, tanto che oggi Giuliano Ferrara sul Foglio in prima pagina fa un lungo editoriale, la tiritera nichilista. L'altra sera un vecchio, cieco e solo e malato, si è buttato dalla finestra di un ospedale romano. Triste notizia di cronaca, succede. Non spesso magari, ma succede. Questo vecchio, che si è messo in volo, era celebre per la sua arte di regista di commedia. Abbiamo scoperto allora che una circostanza malinconica, forse addirittura disperata, può trasformarsi nel discorso pubblico italiano in un orgoglioso e tetro manifesto ideologico a favore della libertà, dell'autodeterminazione umana, del loro più recente compagno in Occidente. Il nulla. Inizia così quella che è definita la tiritera nichilista, ma davvero, cioè, si è prodotto un dibattito con interviste, ma per carità, alcune interviste, per esempio, molto intense, molto belle, molto piene e da leggere, secondo me. Per esempio, il Corriere della Sera intervista il filosofo Giovanni Reale sul suicidio, sul diritto o la facoltà dell'autodeterminazione della vita. Così come intervista Emanuele Severino, che dice: io, quando tutto sarà ormai inutile, chiederò di morire. Severino, che parla del testamento biologico che manca in Italia e pone questa problematica: chi, affetto da un male irreversibile e incosciente, ha lasciato scritto o comunicato a persone di sua fiducia che, quando non fosse più in grado di alimentarsi da solo, desidera che anche l'alimentazione artificiale venga sospesa, e si è lasciato morire, ed è quanto chiederò io. Si dice che queste disposizioni non si può dar corso perché nulla assicura che nel frattempo l'interessato non abbia cambiato parere. Ma si dimentica che non c'è nemmeno nulla che assicuri che invece il parere l'ha cambiato. E chi lo assiste si trova quindi davanti a due possibilità equivalenti. E se non ci sono altri indizi, perché scartare e non far valere l'unico indizio che si ha a disposizione, cioè la volontà che costui ha espresso a suo tempo? E con questa banale, secondo me, domanda, banale nel senso che la risposta per me è, come dice Severino, abbastanza ovvia, anche per questo, dice, il testamento biologico è indispensabile. Ma sulla stampa, Napolitano, rispettare la sua volontà, vengono intervistati, in questo caso, interviste, ecco, un po' più improbabili, come Enrico Vanzina e Carlo Lizzani, per parlare della fine vita. Valentino Parlato, su prima pagina del Manifesto, se la prende con Paola Binetti, così come Adriano Sofri se la prende molto con Paola Binetti per le sue parole ieri alla Camera, tanto che Adriano Sofri conclude il suo lungo editoriale Niente guerre di religione sulla morte di Monicelli con una frase molto molto secca, vale a dire: il Senato romano ebbe tra i suoi membri Lucio Seneca, oggi a Paola Binetti. E invece dall'altra parte Francesco D'Agostino, che è stato anche nostro ospite, è un bioeticista ed è commentatore per Avvenire, su Avvenire proprio a pagina 2, l'uso estremo di un estremo gesto Scrive, è stato un estremo scatto di volontà quello che ha portato Mario Monicelli a uccidersi. Chi può dirlo? Il suicidio è un gesto troppo tragico, solitario, estremo, per poter essere decifrato e definito in modo perentorio e univoco. Di una sola cosa possiamo essere certi, tutti gli uomini sentono il bisogno di non essere lasciati soli, di non essere abbandonati. Ecco perché utilizzare il suicidio di Monicelli come argomento per perorare l'approvazione di una legge eutanasica è scorretto e fuorviante. Insomma, vedendo quello che è successo alla Camera, forse una settimana di pausa non è poi malissimo, non è poi malaccio, visto quello che è successo sulle dichiarazioni di Mario Monicelli. Ma su tutti i giornali trovate davvero molto di questo. Io voglio andare a due segnalazioni. La prima è una vicenda che scrive solo, sempre di politica, ed è una vicenda che ha solo il secolo XIX. Francesco Bonazzi in prima pagina del secolo e poi all'interno a pagina 6, firme false per l'igienista di Silvio. Torna alla ribalta Nicole Minetti, conosciuta anche per essere l'igienista dentale di Silvio Berlusconi, e quella che nella famosa serata in cui Ruby fu portata in questura fu mandata per accogliere Ruby fuori dalla questura. Ebbene, la vicenda che solo il secolo XIX ha, perché dice abbiamo avuto da fonti informate sotto anonimato del PDL Lombardo, è che non c'erano firme sul listino della presentazione di Nicole Minetti come candidata alla regione. Minetti in lista con firme copiate. Questo ci dice un esponente del PDL Lombardo, quelle firme che hanno creato tanti problemi a Formigoni, alla lista di Formigoni, non sono totalmente inventate, sono solo copiate. Molte sono state copiate dalla lista del PDL, altre erano state raccolte prima in calce a un listino dove la Minetti non c'era ancora, perché, racconta il secolo XIX, ricostruendo quei giorni, fu sostituita, fu inserita all'ultimo, facendo fuori Paolo Cagnoni, che era praticamente dato in lista. E secondo il secolo la procura di Milano starebbe indagando su questa vicenda, per il momento con un procedimento contro ignoti. Minetti in lista con le firme copiate, questo per il secolo di oggi. Il Sole 24 Ore invece, voglio per chiudere, apre sulle borse, la BCE risolleva i mercati, e tra l'altro voglio segnalare che Tremonti a pagina 3 racconta Rossella Boccerelli, ha detto il sistema finanziario è solido, l'Italia tiene, c'è una volatilità ma siamo pronti a rispondere in situazioni di tensione. Questo trovate sul Sole 24 Ore di oggi. Allora, io mi fermo qui, ricordo il tema del nostro sondaggio, Julian Assange, parliamo di lui, dell'uomo Wikileaks, ricercato da 188 paesi al mondo, dall'Interpol, per qualcuno è come Al-Qaeda, per qualcun altro andrebbe giustiziato, sono parole di esponenti politici dal Canada, dicono andrebbe fatto fuori, per altri è un paladino della libertà. Cosa ne pensate? Radio24.it per votare, ora il GR.